qui finisce la lezione. E solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, e solo chiacchiere distintivo. 22:53 minuti per Rimi, le frequenze. Gli 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Abbiamo tutto, il microfono, abbiamo messo la sputacchiera e il disco, la sigla sta andando, il disco quell'altro è pronto, ci siamo. No, la birra è lontana. Tutto era sistemato come da autismo. Di una vecchia pratica pluridecennale. E invece ci siamo giocati la distanza dalla birra, che è indispensabile. Ma d'altronde questa è 25 o'clock, la trasmissione scema di Radio Onda Rossa, che va in onda ogni mercoledì notte / giovedì. Abbiamo ricominciato la scorsa settimana dopo una pausa estiva congrua. Ovviamente abbiamo la netta sensazione che il mondo stia flippando via. E non è una frase mia questa, ma una citazione di Roger Waters da un'intervista. Di tanti tanti anni fa, in cui poi cito a memoria ovviamente, non ci abbiamo qui davanti la citazione. Poi diceva: darei tranquillamente, volenterosamente il mio contributo per la rivoluzione, se solo la gente si mettesse d'accordo su cosa la rivoluzione deve essere. Stiamo parlando dei primi anni 70, ma sono parole che calzano ancora oggi. Vediamo subito un po' di coordinate per quanto riguarda la radio che state ascoltando, perché non è una radio qualunque, se ci capitate. Se ci capitate ad ascoltarla, se non siete proprio quei fedelissimi ascoltatori, ma se invece incappate nelle maglie di Elettrodo che ci precede e ne rimanete intrappolati. Questa radio è una radio libera dal 1977, senza padroni, senza pubblicità, senza finanziamento da partiti, partitini. Quindi una radio che vive grazie al vostro contributo. Una radio di movimento, ovviamente, una radio che è schierata da una parte ben precisa, non l'ha mai nascosto. Dalla parte degli oppressi, dalla parte degli emarginati, dalla parte di coloro e di tutte quelle che il potere, il denaro lo subiscono. E cercano comunque in questo marasma, in questo mondo di merda, di sbarcare il lunario. E questa cosa è importante da dire, perché già tutti e tutte lo sapete, ovviamente, perché avete partecipato pochi mesi fa a una raccolta fondi che ci ha portato a ripristinare il segnale a dovere, anche se poi ci sono stati dei problemi successivi dovuti a un altro e più piccolo trasmettitore, quello che ci fa fare il Ponte Radio con Montecavo. Però dicevo, avete contribuito tutte e tutte alla raccolta fondi per la radio crowdfunding, così si dice, per Radio Onda Rossa, per il trasmettitore, ma Radio Onda Rossa comunque continua sempre ad avere delle spese importanti da dover sostenere, ed è altrettanto importante che voi aiutiate Radio Onda Rossa anche in questa impresa economica. Sulla pagina web della radio www.ondarossa.info, andando sulla cartella sottoscrivi, sul tasto sottoscrivi, troverete, si aprirà una pagina, troverete una pagina dove ci stanno scritte tutte le modalità per sottoscrivere per la radio. 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare. Cooperativa Cultura Laboratorio 2001 00185 Roma San Lollo, via dei Volsci 56. Onda Rossa, ondarossa.info, la mail della redazione della radio. 25 o'clock 25 scritta al numero. Chiocciolondarossa.info è invece la mail della trasmissione, dello spazio che state ora ascoltando. 0649175 il contatto telefonico, si parte così. questa era Soixante Trois. Anzi, per l'esattezza, Thomas Tinariwen, dal nord del Mali. Di Ibrahim Agg Alabib, fondatore del gruppo. Andiamo a raccontare delle brevi note riguardo Tinariwen, che vanno peraltro già da tanto tempo in radio e anche nell'automatico, ci stanno numerose loro tracce che girano. Quindi Ibrahim Agg Alabib, fondatore del gruppo, che rimane orfano ed esule in Algeria. E ascoltava da giovane ogni tipo di musica, il Rai ovviamente algerino e il Chabi marocchino e ovviamente anche la musica occidentale che veniva dal nord e dall'occidente del mondo. Egli stesso si costruì una chitarra e cominciò ad esibirsi nei campi Tuareg, nei campi profughi Tuareg che erano stati allestiti nella Libia del sud negli anni 70-80 e dove venivano addestrati i guerriglieri di mezza Africa sotto l'egida del colonnello Gheddafi. Poi appunto negli anni 90 depongono le armi e si passa a dedicarsi alla musica a tempo piano, così che nel 99 parte con Tinari Web e con varie collaborazioni che lo porteranno appunto a suonare nelle stesse esibizioni con Robert Plant, col gruppo francese Low Joe, un Carlos Santana. Insomma, questo è il risultato quindi di suoni provenienti dall'Africa, dal Sahel, dal Nord Africa. Il rock, il blues, un pizzico di psichedelia, insomma, Tinariwen. Avete sentito all'inizio, prima dell'inizio della puntata, suonare L'ottobre sta arrivando? L'ottobre è arrivato. La scorsa puntata abbiamo avuto in studio la voce Marco dei P38 Punk, che hanno fatto uscire in concomitanza con il loro 27esimo anno dalla fondazione il singolo, ovviamente presentato in anteprima Radio Onda Rossa, come sempre soliti fare. Stanchi di questa città, come diceva siamo in vena di citazioni questa sera. Calcolando che questa città sta veramente diventando invivibile da ogni punto di vista, lasciata all'abbandono di se stessa, insomma, una capitale europea che di europeo non ha nulla, ma non ha nulla nemmeno di extra europeo. Dicevamo, non ci restava che citare Remo Remotti con quel "me ne andavo da quella Roma", e infatti poi me ne sono nato e poi sono tornato. Così suonava il lungo epiteto. E noi onestamente questo desiderio l'abbiamo sempre avuto e assecondato. E per questa sera non possiamo far altro che aiutarvi ad andarvene da questa città. E magari di tornarci di tanto in tanto. Ora ce ne andiamo addirittura nel nord del Giappone, ovvero nell'isola di Hokkaido e di Kurile Island e Shangilen, ovvero la patria dell'Ainu, che era una etnia indigena originaria di queste isole, soggetta ad invasione da parte dei giapponesi veri e propri dal XVII secolo in poi. I quali, col pretesto delle frontiere, procedettero all'assimilazione dei territori e a una discriminazione e un pregiudizio rispetto alle popolazioni indigene, appunto, che vi abitavano, e della cultura Ainu. Portavoce in senso musicale di questa cultura sono una band di cui abbiamo ritirato fuori il disco dalla naftalina da qualche tempo, un lavoro del 1993 che si chiama Kamui Ipirma. Loro sono Soul Flower Union. E se nella scorsa puntata, alla fine della scorsa puntata, perché abbiamo cominciato dove avevamo finito, avevamo mandato la seconda traccia che si chiamava Sacrifice, adesso ascoltiamo la settima, che è in realtà una cover dei Traffic, The Chief Was Cheated. Il grande capo è stato truffato. Oh, questa era O'Sullivan March. Stiamo parlando di Chieftain, cioè la formazione irlandese, forse di musica tradizionale, ovviamente, forse più conosciuta, o come dicevamo la scorsa puntata, storica. Sono dagli inizi degli anni 60, loro, alcuni di loro ci hanno lasciato, sono stati sostituiti, insomma, una band, una formazione, un collettivo di lunghissima storia, inizialmente dilettantistico, nel senso che per molti anni molti di loro hanno continuato a fare, a svolgere le professioni, le loro professioni per campare, poi alla fine la musica ha preso il sopravvento, sono diventati professionisti, insomma un po' la storia dei Chieftain è la storia così dell'Irlanda e di tutti noi in qualche maniera nel passare di questi decenni. E al solito quando c'è una forma di imperialismo, di aggressione, di sfruttamento di territori, di popolazioni da parte di qualche altra potenza, che ovviamente fa valere la propria, come dire, eufemisticamente influenza su questi territori, si produce una reazione, insomma, una forma di andare a ripescare nella propria storia, nelle proprie radici. Ma non per questo di chiudersi, almeno nel migliore dei casi, nei migliori dei casi, dentro le proprie barriere culturali, ma sempre con uno sguardo aperto a quel che succede nel mondo, a quel che succede soprattutto per quanto riguarda gli altri oppressi e oppresse. Alle volte si producono anche del purpurri, dei veri e propri minestroni che producono ottimi risultati. Parliamo perciò di Akasha, che è composta da questi musicisti: Greg Henderson al basso, che proviene dal Sudafrica, Siva Balan, Shangunga Sundram, e scusate le pronunce per questi nomi che non ci sono proprio familiari, che viene da Shanghai, dalla Cina, Vik Ramakrishnan, che viene da Singapore e suona le tabla, i kompang e i kunnakol, Mod Sani Zambin Aziz, che suona il kayon, la rebena, il melayu, l'udu drum, la vuvuzela e l'Africa djembe, che viene dalla Corea del Sud. E ancora Kumar Kangerti Jesu, che a discapito del cognome, che è appunto di origine indiana, vive appunto e viene da Perth in Australia e suona il sitar, Jammy Wilson alla chitarra acustica, il nylon string guitar e il basso, il ukulele, che viene da Austin in Texas, e poi Eric Lee che suona il piano e l'armonium e viene da Phuket in Thailandia. Insomma, questi sono gli Akasha. E questa è la loro Santubong. Thank you. 23 e 34 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. 06 491 7500, recapito telefonico della radio. Ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni a Radio Onda Rossa. Quindi da questa da questo collettivo cosmopolita passiamo invece a, rimanendo diciamo in qualche misura almeno dal punto di vista dell'assetto sonoro, nel sud-est asiatico e per l'esattezza nella zona Malesia-Indonesia, di cui ci arrivano appunto le preoccupantissime notizie del terremoto tsunami che ha colpito l'isola di Sulawesi. Un'isola peraltro bellissima e fra le meno abitate diciamo dell'arcipelago indonesiano. E come successe per il terremoto di ormai una manciata di anni fa, che colpì appunto sempre l'arcipelago indonesiano e un po' tutta l'Asia meridionale, ecco, terremoti di questa portata sono sempre gentissimi. Le scosse più forti di terremoto si sono registrate proprio in quell'area, storicamente parlando. In Cile il sisma più potente, però diciamo la frequenza e l'intensità dei terremoti nell'area dell'Oceano Indiano Meridionale sono estremamente frequenti e pericolosi questi terremoti, ma diciamo quel che ha portato, ha amplificato ancora di più la pericolosità è il fatto appunto che vengano prodotti degli tsunami, delle onde anomale nel mare che investono la costa, una costa che storicamente non era molto abitata, ma che lo sviluppo moderno ha portato, quindi anche capitalistico se ci è concesso, ha portato a costruire molte città, molti villaggi sulle coste, quindi a rischio di questo tipo di catastrofe naturale. Però rimanendo a noi, questo lavoro è una collezione di cover fatte per un artista malesiano che si chiamava P. Ramlee, una sorta così, scusate l'ardito confronto con un nostro Renato Carosone, un Fred Buscaglione, insomma in qualche maniera un pioniere che portava i suoni dell'Occidente e degli imperi nelle proprie terre, lo faceva ovviamente contaminando, mischiando. Con uno stile, insomma, tutto nuovo e particolare. Quindi tante tracce per lui. Per l'esattezza andiamo a ascoltare One Book Short, Pok Pok Bajang Lapak, uno spassoso rock and roll twist che andiamo ad ascoltare, però in chiave appunto

Insomma, dopo Wang Buk Shork della Malesia con la loro Pok Pok Bujang Lapak, scendiamo a Napoli, o meglio ancora dalle parti di Salerno, Lettio Recovery. Sbirrocci una minima frame, una traccetta corta che inserimmo per chi se lo ricorda in una compilazione prodotta proprio per la radio da questo spazio radiofonico che ospitava un po' una serie di musicisti, artisti. Spaccatori di strumenti vari che a vario titolo in varie maniere avevano contribuito alla trasmissione stessa con la loro partecipazione, alle volte offrendo pure di suonare per la radio e ben volentieri prestarono una loro traccia per la sottoscrizione alla radio. Insomma, una roba dei primi anni 2000, saremo nel 2006-2007, credo, giù di lì. E dopo Let You Recovery, Mondo Cane, Urlo Negro, e cioè quel... comunque l'ho spostato, si può dire, sì. Non se ne offende sicuramente di Mike Patton. Che cantava sotto i suoni offerti dall'orchestra filarmonica Arturo Toscanini. Così poi probabilmente ne avremo modo di parlarne anche più diffusamente, più in là comunque. Un'iniziativa ancora lontana nel tempo a venire, mancano più di 10 giorni. Venerdì 19, sabato 20 ottobre, Tilt Fest. E cioè quelle strane cose che vengono assemblate dal bencivenga occupato. Dei vari collettivi che ci girano intorno, quindi venerdì 19 ottobre. Inizio concerti alle 19 con i Romanez. Poi, che vabbè, non li descrivo nemmeno. Cox in the Hall, che fanno, come loro stessi definiscono, musica punk, vipra, musica jao, Anonima Ciociara, Saltarello Attack, Autunno. Perugia Screato, Orfani, anche loro in stile Ramoscore, punk rock, e poi gli Atro che fanno post-hardcore. Sabato 20, una vecchia nostra conoscenza, anzi tante vecchie nostre conoscenze. Kanashi Gol Collective, Milano Romantic Punks, Gioventù Bruciata, Formia, punk hardcore dal 1996, All Against All, postcore, poi Misanthropus, Doom Legend from Latina, Carlos Dunga, Soccer Punk da Firenze, X DeLorean X, non i DeLorean, ma gli X DeLorean X che fanno Power Violence da Firenze, Collapse, Trash Metal sempre da Firenze, e poi Lemurian, di cui ci siamo subito incuriositi, che fanno Psycho Afrobeat. La locandina vale almeno quanto i concerti, perché è opera di Simone Lucciola, sempre pronto a disegnare lo scherno, l'aspro, la contraddizione, la provocazione. Ma ce ne stanno tante di iniziative, anche precedenti, quella per esempio di venerdì 12 ottobre. Allo spazio sociale Nido di Vespe, via delle Cicerie 131 al Quadraro, cena sociale benefit per le spese legali. Il Il 27 maggio 2018 a Roma, in occasione della tappa finale del Giro d'Italia, si tenne un presidio a sostegno della lotta del popolo palestinese. A seguito delle cariche della polizia e dei carabinieri, venivano fermati 6 giovani compagni di Roma e ovviamente denunciati. Noi lasciamoli soli, libertà per tutti e tutte, Palestina libera. Venerdì 12 ottobre 2018, spazio sociale Nido di Vespe, via Cicci 131 al Quadraro. Giovedì 11, Punch in the City, la box come non l'avete mai vista, non violenta e inclusiva, presentazione del documentario e dibattito con Mariella Bussolati, regista del documentario. Solidarity Crew, gruppo sportivo Roma. Micropolis Fight Club, Salonicco, Grecia. E poi box Forte Palestra, centro sociale Forte Prenestino, Roma. Il tutto appunto al XOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino. E ancora mercoledì 10, serata a sostegno dell'Antifa Roma Est verso il Festival Antifascista, 13-14 ottobre al Forte Prenestino, combatti la paura, distruggi il fascismo. Alle ore 20, buffet vegan, a sottoscrizione, presentazione del festival. Spazio sociale 100 celle aperte, via delle Resete 5 a Roma. Contro ogni frontiera e galera, presidio al CPR di Ponte Galeria, domenica 7 ottobre dalle ore 17, Fiera di Roma, solidarietà con chi lotta e resta nei centri di accoglienza e nelle prigioni per migranti. Resiste e resta ovviamente nei centri di accoglienza e nelle prigioni per migranti. Partecipiamo al presidio come momento concreto per rompere il silenzio che circonda le mura e provare a scambiare contatti con le detenute all'interno. Quindi non si fermano i presidi domenicali periodici CPR di Ponte Galeria. E quindi domenica prossima alle 17, appuntamento alle ore 17, fermata Fiera di Roma. Veniamo qui dalle nostre parti, dalle 17 in via delle Etruschi 3, a 20 anni del Sally Brown, in compagnia del San Lorenzo Carnival. Si esibiscono Hakuna Matata, Ross Atracos dall'Honduras, Atracos, Zama Cueca dall'Argentina e Balla che ti passa dall'Italia. Per i 20 anni del Sally Brown. Sabato prossimo, 6 ottobre. E ancora domani, quindi giovedì 4 ottobre, presentazione e discussione dell'opuscolo Migrazione e detenzione delle donne nel CPR di Ponte Galeria, alcuni spunti di riflessione, dalle 18 al BAM, via dei Castani 42, a 100 celle ancora. Cinefaro occupato invece tutti i giovedì dalle 22 alle 22, dal 15 al 20 settembre, 15-20 settembre, 11 ottobre. Il fattore umano, un documentario sul fotografo Tano D'Amico e le lotte sociali di Matteo Lemanno e Francesco Rossi. Il tutto a ricominciare al Faro. Insomma, ve ne abbiamo dette un po', spero che ne abbiate appuntate. Nel frattempo, sotto la nostra voce girava Loop Guru. Con la drumming for creation. Il n'y aura plus de souffle pour alimenter notre âme. La vie continuera son chemin comme si de rien n'était. Et la génération à venir en fera de notre génération une histoire. c'est comme ça. Questo è l'omaggio che faceva Tomahawk. Nella loro Ghost Dance a le danze rituali, appunto, dei nativi nordamericani. Quindi Mike Patton ancora e soci in Tomahawk. Preceduto da Petit Coro e Rosso. E nella scorsa puntata avevamo terminato presentando un lavoro del lontano 1974, se non andiamo errati. Era rieditato recentemente. Si tratta di della colonna sonora di un documentario su me. Si chiama la band Sume, The Sound of Revolution. E quindi andiamo in altro quadrante del mondo, di quelli colonizzati, di quelli dove questa che oggi è la fortezza occidente, così a giudicare dai leader, dai capi politici di questa fortezza Europa, fortezza Stati Uniti, assediati si sentono da coloro che reclamano la loro parte defraudata nei secoli di colonialismo. E stavolta parlando di Sumè, affrontiamo il problema di un'altra popolazione estremamente poi ridotta nei numeri in quanto abitante territori di considerati e giudicati da tutti coloro che non li abitano inospitali. Stiamo parlando delle terre del nord dell'Artico. Stiamo parlando dei popoli Inuit che abitano essenzialmente il Canada del nord, la Groenlandia, ma che sono imparentati con le popolazioni siberiane, le popolazioni finniche, insomma gente che non aveva frontiere, che anzi sfruttava il fatto che il mare si ghiacciava proprio nel nord, negli inverni polari, per poter percorrere quello che altrimenti sarebbe un ostacolo insuperabile, cioè il mare, per poterlo percorrere a piedi oppure con le slitte trainate dai cani. Negli anni 70 anche queste popolazioni ebbero una punta di orgoglio, per cui come succedeva per le altre cose che abbiamo raccontato questa sera, andavano a recuperare un po' di quella che era la radice del loro modo di vivere, del loro modo di esistere, del loro modo di rapportarsi con lo spazio che li circondava, con la natura. In molti casi ostile, come avremmo giudicato noi, eppure bellissima, eppure per loro il loro habitat a cui si erano abituati a vivere. Un po' come noi ci siamo abituati a vivere in questo inferno, che non sarebbe certo un inferno, ma è diventato un luogo inospitale per come i potenti, le classi dominanti hanno imposto il loro punto di vista, il loro modo di vivere, i loro privilegi, prima di tutto assurdi peraltro, giudichiamo, imponendo ritmi forsennati. E un po' questo è lo stile poi del colonialismo, voler imporre sempre e comunque a tutte e a tutti i popoli, a tutte le genti, quella che è la propria visione, il proprio, come dicevano sempre i colonialisti, il proprio spazio vitale. Spazio vitale ovviamente a discapito di altri e di altre. E quindi andiamo ad ascoltare ancora due tracce da questo Sumè, The Sounds of Revolution. Cerchiamo di dirvi anche il nome Inuit della traccia e poi la traduzione in inglese. La tredicesima traccia si chiama Inuit Nunat, che significa Lands of the People. E poi Ikinngut Tinga, che sarebbe My Friend. Quindi assume a Radio Onda Rossa 25 o'clock. Kainga sua jigi febu nunet ukula yukabu bisu sudat a topabu bisan kafi galugi kingulita bisarat siulita at datat inuit nunagat bigisabat kapugumu bigisabat kapugumu Big Sabbath, Papu Gumu. Chiki Kuyatu, Atluna, Ekulu, Inu Sabji. Itamatu, Tu, Satara, Sunniniya. Nalagasa Bekuban Nunabut Ako Sagan Bisusutati Gusagan Tunisagan Ulan Tutan Nisagat ulat tutat Tu nisagat ulat tutat questa è un'altra bella, bel miscuglio, bella contaminazione, bell'impiccio fra la musica sudista bianca e i nativi del deserto degli Stati Uniti del Sud, del Messico. Le tribù Navajo, un Navajo. Questa è l'orchestra del deserto, del, perdonatemi l'appropriazione del nostro pit stall. Che oltre ad essere un po' il creatore di questo progetto ormai datato, Orchestra del Deserto, era, è anche, anche qui usiamo l'appellativo ormai che sembra quasi un dispregiativo, storico, storico frontman. Degli Scream, vecchia conoscenza del punk hardcore dell'area di Washington DC, qua anche a Roma conosciuto, hanno suonato più volte al Forte Prensina, hanno suonato anche per la radio, insomma. Questo è un loro lavoro del 2002 da cui abbiamo ascoltato Mac Fun, ed ora ascoltiamo Globalist Dream, Orchestra del Deserto a Radio Onda Rossa. Bigger. Costruiamo i muri per tenerci liberi, ed è una bella contraddizione questa roba qua, che con parole semplici Billy Bragg sa mettere in musica. È un tormentone un po' che vi stiamo passando praticamente da tante tante settimane, anche ovviamente da prima della pausa estiva. Why We Build the Wall, Billy Bragg, e tanti strumenti teorici che abbiamo sviluppato negli ultimi anni, così per arricchire anche il modo di pensare antagonista al di fuori delle logiche di potere, ecco. Uno di questi strumenti teorici, una di queste, di questi concetti che prendiamo a prestito, sviluppato in special modo nel femminismo materialista, appunto, è quello del posizionamento. Lo strumento del posizionamento ci serve a risolvere anche e a crescere soprattutto e a capire. Quelle che sono le contraddizioni di genere o anche quello che sono le forme di chi si trova appunto in posizioni di potere e c'ha proprio a disposizione una facile fuoriuscita da quello che altrimenti sarebbe un problema, per cui si risolve semplicemente con dei vecchi arnesi ormai superati, dei vecchi arnesi insanguinati, dei vecchi arnesi che hanno prodotto soltanto morte e distruzione, hanno acuito problemi. Strumenti come quelli del facili, come quelli del razzismo oppure quelli del machismo, quelli delle fobie. This is what solidarity looks like. E bisogna dire che a un certo punto queste forme di derisione che del più debole, tutto sommato, diventano quasi patetiche e fastidiose. Tanto quanto sono innervate però dentro le culture, tra virgolette, popolari. quindi grazie ancora a Billy Bragg che ci ha regalato questo splendido album in cui con la semplicità e la causticità di un'ironia di chi guarda con con il dovuto distacco appunto quelle che sono le cose del presente e ce ne evidenzia la loro fallacia, ma anche allo stesso tempo appunto la loro puerilità. Now everyone seems willing to lend. Detto questo, 39 minuti dopo la mezzanotte, non facciamo altro che salutare tutte e tutti coloro che ci hanno ascoltato fino ad ora, ma soprattutto tutti quelli e tutte quelle che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, tutti i centri di detenzione per migranti, i ghetti, chi è costretto a decreti amministrativi e chi subisce i decreti come il decreto sicurezza nelle scuole, insomma. People have had enough of experts. Da una parte bisogna lottare, dall'altra parte a queste forme così di oppressione occorre utilizzare anche lo spirito, la messa in crisi, la presa per il culo, insomma, dai. Restituiamo pan per focaccia. Si riprende alle 8 con la rassegna stampa. La lettura delle prime pagine, la rassegna stampa vera e propria, la rassegna stampa cittadina e redazionali dalla città, e alle 13 il giornale radio, alle 13.30 lo spazio comunicazione, poi c'è tutta scena cinema e tracce di cinema, chissà se sarà iniziata, ma Attica Blues oltre alla Black Music, la Eschina del Soul per un certo periodo non andrei in onda, un mesetto, qualcosa di più forse. Ma noi ci auguriamo invece il più presto possibile possa ritornare la Schiena del Sol. Si prosegue alle 18 alle 20 con Mezzedes, alle 20 lo spazio comunicazione, 20-23 ancora uno spazio dedicato al martedì autogestione femminista e lesbica, più o meno debitamente riempito in questo periodo. Alle 23 dovrebbero tornare a inizio ottobre, lo fanno di solito Apostasia. Quindi bella a tutti e a tutte, ci risentiamo mercoledì prossimo, dai. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista.